Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi voglio parlare di un libro, di un romanzo veramente straordinario. Mi sento di poter usare questa parola innanzitutto per la mole del libro che vi presento. Sono 828 pagine, il libro a dirlo così sembra un mattone, ma vi assicuro che si legge davvero d'un fiato e io lo trovo uno dei migliori libri pubblicati in questi ultimi mesi. Si intitola Vita e Destino, è di Vassili Grossman, è stato pubblicato da Delphi, tradotto da Claudia Zonchetti. L'autore è un grande scrittore ucraino di religione ebraica, era nato nel 1905 e morì nel 64 a Mosca, e questo avrebbe dovuto essere il libro della sua vita, uso il condizionale, perché in realtà il povero Grossman non riuscì a vedere pubblicato il suo libro. Nel 61 infatti gli furono sequestrati non solo i manoscritti del libro, ma ogni minima traccia, addirittura le minute, perché non rimanesse nessun segno di questa opera. Erano stati sequestrati naturalmente dal regime. E quali erano le ragioni di questa così occhiuta persecuzione nei confronti di un libro, di un romanzo? Il libro in fondo si apre con quella che sembra una scena piuttosto edificante, cioè la descrizione dell'eroismo del popolo e dell'esercito sovietici contro il nazismo. E dentro poi c'è la descrizione dell'assedio di Stalingrado, la vita dei militari, le vicende delle famiglie coinvolte, le persecuzioni naziste contro gli ebrei, ma soprattutto, e qua sta la ragione dell'antipatia suscitata presso il regime sovietico, soprattutto, dicevo, c'è la descrizione puntuale e inesorabile, certamente una delle più efficaci dal punto di vista letterario scritte nel Novecento, del totalitarismo e delle micidiali aberrazioni cui il totalitarismo può condurre. Ho chiesto un commento su questo libro a una delle più importanti studiose di letteratura russa italiana, Serena Vitale, che è lei stessa una scrittrice e che insegna all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno Serena Vitale. Buongiorno a voi. Professoressa Vitale, come mai un libro come questo, così importante, così significativo, è stato nascosto per tanti anni ai lettori occidentali? Beh, non è stato nascosto, fu pubblicato una prima volta da Yakabuk nella versione che era arrivata in Occidente, pare con l'aiuto di Sakharov, allora vivo. In realtà nel 61 il KGB aveva distrutto ogni copia, persino i nastri della macchina da scrivere, e però, come diceva Bulgakov, i manoscritti non bruciano, prima o poi vengono fuori. Cos'è che faceva tanta paura all'Unione Sovietica di allora, di questo libro? Comincia con un attacco molto duro al nazismo in realtà, perché... Sì, l'attacco è strepitoso perché ha questo, dice, che orrore, questi dei lager tutti uguali, e poi si scopre che siamo in un lager nazista, e quindi qui comincia la provocazione, che non era provocazione da parte di Grossman, ma lo fu vissuta come tale, cioè il paragone a cui arrivò lo stesso Grossman attraverso un tormentatissimo itinerario intellettuale, il paragone tra i due sistemi totalitari che hanno scempiato l'Ottocento e il Novecento, quello nazista e quello comunista, con i loro identici sistemi di persecuzione, se si fa soltanto le camere a gas, ma le stavano già, Stalin stava già studiando come fare. E questa è la cosa forse più terribile di cui Grossman nella sua... quasi, come devo dire, era come un bambino, c'era arrivato, lo voleva scrivere ed era convinto che gliel'avrebbero pubblicato, mentre ancora adesso non solo la cosa provoca discussioni, ma si capisce che l'Unione Sovietica non poteva accettare una cosa del genere. Infatti nel cuore del libro a un certo punto c'è, poi la farò leggere, una citazione in lode alla libertà che fa veramente impressione, tanto è attuale e forte. Certo. Ma appunto lui c'era arrivato, pensi che Grossman all'inizio era uno scrittore, non dico di regime, un buono scrittore ortodosso, attraverso quello che aveva visto, teniamo proprio presente che lui per un miracolo sfuggì alle persecuzioni che stava cominciando Stalin contro gli ebrei e quindi contro l'ondata di antisemitismo terrificante, e arrivò da solo a vedere questa realtà. C'è un dialogo in carcere tra un ufficiale nazista e un detenuto comunista, che terribile, assomiglia a Dostoevskij, quando due persone no si guardano allo specchio, dice il nazista: voi credete di odiarci, ma in realtà siamo la stessa cosa, cioè una tra le più terribili riflessioni. Qui arriva a questo, cioè che i sistemi, appunto, il grosso, che i sistemi di repressione di massa si assomigliano tutti. E allora torno alla domanda iniziale, che riformulo in questo modo. Lei ci ha ricordato che il libro aveva avuto una sua fugace apparizione, però insomma, certo non ha avuto non ha esercitato il peso che forse si sarebbe meritato e che si meriterebbe nell'opinione pubblica. È un capolavoro del Novecento, di questo terribile Novecento. La prima versione apparve innanzitutto in forma mutila, perché era arrivata in condizioni assolutamente rocambolesche. Quest'ultima edizione di Adelphi invece si fa sull'ultimo manoscritto possibile, chissà magari se Grossman si basa, quindi ha alcune integrazioni, ha una nuova traduzione, e a me pare dalla ricezione che sto avendo che le cose siano cambiate, anche il pubblico è cambiato. Negli anni 70 si diceva: ah, ma insomma questi dissidenti che siano un po' fascisti, ecco, diciamolo così. Adesso forse la gente ha imparato a capire. E lui al termine come si sarebbe collocato dal punto di vista ideologico della sua vita dopo queste delusioni? Una persona libera. Una persona libera, assolutamente. Aveva scoperto, lo disse credo a qualcun altro, cioè, ho liberato lo schiavo che era in me. Cioè questo libro, le persecuzioni, le vessazioni, lo chiamavano e cambi. Lui, questo libro e altri continuavano a chiamarlo, e lui come un bravo ortodosso cambiava così, ma non riusciva a capire il senso. E a un certo punto, quando fu messo, succede spesso, quando fu messo al bando, innanzitutto recuperò il proprio ebraismo, perché lui veniva da una famiglia di ebrei assimilati dell'Ucraina, e questo recuperare l'ebraismo gli diede la forza di dire la verità. E morì di cancro, sicuramente infelice, ma felice di aver trovato la libertà. Sa, in Unione Sovietica ci si situava da chi era con la verità e da chi era contro la verità. Quando Grossman capì che tutto si basava sulla menzogna, ma non la menzogna così, l'ideologia è di per sé menzogna, l'ideologia è di per sé inganno, allora Grossman passò da quell'altra parte. Come definirla? Io penso che neanche lui si sarebbe definito. Bene, grazie a Serena Vitale. Grazie a voi, a presto, arrivederci. Buona domenica. E adesso vi faccio ascoltare il brano sulla libertà di cui vi avevo parlato. La gloriosa rivolta del ghetto di Varsavia a Treblinka e a Sobibor, per esempio. L'imponente movimento partigiano in decine di paesi che Hitler aveva asservito. I disordini di Berlino del 1953 e in Ungheria del 1956, dopo la morte di Stalin. Così come le rivolte nei lager della Siberia e dell'estremo oriente sovietico, i moti di liberazione della Polonia, il movimento studentesco per la libertà di pensiero in numerose città, gli scioperi in molte fabbriche, hanno dimostrato che il desiderio di libertà non può essere sradicato. È stata soffocata la libertà, ma è sopravvissuta. Un uomo ridotto in schiavitù diventa schiavo per volontà della sorte, non per sua natura. Il desiderio congenito di libertà non può essere amputato. Lo si può soffocare, ma non distruggere. Il totalitarismo non può fare a meno della violenza. Se vi rinunciasse, cesserebbe di esistere. Il fondamento del totalitarismo è la violenza, esasperata, eterna, infinita, diretta o mascherata. L'uomo non rinuncia mai volontariamente alla libertà, e questa conclusione è il faro della nostra epoca, un faro acceso sul nostro futuro. Morì in un gulag di Stalin l'autore di uno dei primi e più interessanti romanzi sulla rivoluzione russa, cioè Boris Andreevich Vogau, che aveva assunto lo pseudonimo di Boris Pilniak, di cui Utet pubblica L'anno nudo, 282 pagine, 14 euro, tradotto da Pietro Zveteremich. Questa è un'opera quasi immediatamente successiva alla rivoluzione sovietica. Uscì infatti nel 1921, l'autore era giovanissimo, era nato nel 1894 e sarebbe comparso appunto in un gulag nel 1938 perché accusato di essere una spia dei giapponesi. Il romanzo ha fatto all'epoca scalpore, suscitato un grande dibattito anche per lo stile letterario insolito e innovativo che mescola i punti di vista dei vari protagonisti. E si tratta della cronaca nel 1919 da un piccolo paese della Russia profonda che vive le contraddizioni tra l'irrompere della rivoluzione descritta crudamente anche nella sua brutalità, ma soprattutto la sua vitalità e le tradizioni rappresentate da una nobile famiglia di principi. Come scrive Solženicyn nella postfazione che accompagna questo libro, il concetto basilare che pervade tutto il libro riguardo alla rivoluzione è che sia stata una rivolta spontanea, naturale del popolo russo. Ma adesso, continua Solženicyn, si interseca anche un altro concetto che attraversa sempre l'intero romanzo e per l'autore è ancora più importante: il popolo inteso come forza della natura, la sua potenza anche sessuale che viene dalla terra. Si armonizza con la rivoluzione, ma al tempo stesso è più forte ed eterna di essa. La rivoluzione, quindi, conclude Solženicyn, non è tanto un avvenimento socio-storico, quanto piuttosto l'esplosione degli istinti umani. Quindi non c'è una visione antipatizzante nei confronti della rivoluzione, anzi, l'autore Pilniak era stato considerato uno dei compagni di strada, quegli intellettuali che, pur senza partecipare direttamente alla rivoluzione, l'avevano guardata con molta simpatia. La definizione era quella di Trotsky. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba, vi propongo adesso alcuni titoli italiani. Il primo è una ricostruzione di un episodio tragico che ha segnato uno spartiacque nella recente storia d'Italia, l'autore Adriano Sofri, La notte che Pinelli, 288 pagine, 12 euro, pubblicato da Sellerio. Un libro, dico subito, che io ho trovato diverso da quello che ci si sarebbe aspettati. Sofri lo conoscete tutto, un intellettuale, uno scrittore, al centro di un'infinita polemica per la vicenda che lo ha visto accusato, imputato e poi condannato per aver istigato l'accusa che gli è stata rivolta, l'omicidio di Luigi Calabresi. La vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto ha fatto discutere enormemente tutta l'Italia per molti anni e ha mantenuto sempre aperta la ferita rappresentata dall'uccisione del commissario Calabresi e dal clima di odio nei suoi confronti nel quale era maturata appunto il suo omicidio. Tutto era cominciato quella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 quando Giuseppe Pinelli morì precipitando da una finestra della questura di Milano dopo l'attentato di Piazza Fontana. Perché allora parlo di un libro inatteso? Perché naturalmente da Sofri ci si sarebbe potuti aspettare un'analisi del clima che portò all'uccisione di Calabresi. Invece in questo libro Sofri ci ricostruisce analiticamente la vicenda della morte di Pinelli, esamina minuziosamente tutte le testimonianze, ricorda il clima nel quale si erano mosse le indagini che, come ricorderete, erano andate nella direzione della pista anarchica, e smonta il libro di Sofri tutte le versioni ufficiali, compresa quella che era emersa dalla sentenza del processo istruito da Gerardo D'Ambrosio, il futuro magistrato di Mani Pulite e attualmente parlamentare del PD, il quale aveva difeso in questa sentenza la posizione di Calabresi. Insomma, Sofri rievoca e ribadisce tutte le ambiguità che avevano sbrigativamente e irresponsabilmente condotto a dare la colpa della morte di Pinelli a Calabresi e giunge alla conclusione che oggi, come sia andata la vicenda e perché effettivamente sia morto Pinelli, è impossibile dire. Infatti questo libro è scritto in forma quasi epistolare a una ragazza di 20 anni, a questa ragazza che alla fine del libro chiede a Sofri ma insomma che cosa è successo, l'autore risponde: che cosa pensi che sia successo quella notte al quarto piano della questura? Domanda. Ti rispondo: non lo so. Alcune pagine del libro sono dedicate naturalmente alle conseguenze della morte di Pinelli e alla campagna violentissima che venne poi lanciata contro il commissario Luigi Calabresi e che portò al suo assassinio il 17 maggio del 1972. Sofri, per la verità, al riguardo non si tira indietro, come dimostrano queste parole circa le proprie responsabilità. Io ho questo concetto della corresponsabilità, che se qualcuno traduce in atto quello che anch'io ho proclamato a voce alta, non posso considerarmene innocente e tantomeno tradito. Ne sono corresponsabile, solo di quello del resto e non di altro. Di nessun atto terroristico degli anni 70 mi sento corresponsabile. Dell'omicidio Calabresi sì, per aver detto o scritto o per aver lasciato che si dicesse e si scrivesse, Calabresi sarai suicidato. E naturalmente nel libro si parla del famigerato appello, anzi c'è il testo integrale che venne sottoscritto contro Calabresi nel 1972, un appello nel quale il commissario veniva definito torturatore, che fu firmato da centinaia di grandi nomi dell'epoca, fra cui molti intellettuali ancora operosi, ci sono tutti i nomi nel libro. Un appello del quale Norberto Bobbio, che lo aveva firmato anche lui, molti anni dopo, proprio su sollecitazione di Sofri, avrebbe dichiarato di provare orrore. Un altro episodio, questo molto più recente, l'abbiamo ancora tutti negli occhi e altrettanto controverso, che ha visto le forze dell'ordine al centro di polemiche e procedimenti giudiziari, è quello del G8 di Genova del 2001, caratterizzato dall'ondata di violenza, dalla morte di un manifestante, dalla incursione notturna della polizia nella scuola Diaz, per la quale diversi appartenenti alla Polizia di Stato sono stati recentemente condannati. Un'insolita ed efficace ricostruzione di quei giorni troviamo nel romanzo di Giacomo Gensini, che è uno scrittore con un passato proprio da poliziotto. Il titolo è Genova sembrava d'oro ed argento, pubblicato da Mondadori, 202 pagine, 16 euro. Non è una ricostruzione degli incidenti di Genova, ma la storia di un gruppo speciale di poliziotti, anzi, come si considerano profondamente nell'animo loro, dei celerini, che venne addestrato da un giovane funzionario per affrontare appunto quell'appuntamento. Quel gruppo di celerini che inizia con molta nonchalance e un po' di curiosità questo strano addestramento, scopre un addestramento del tutto insolito. Vengono usate delle tecnologie particolari, delle tecniche antisommosse mai viste nella polizia italiana. Soprattutto si crea un forte spirito di corpo e una capacità operativa piuttosto rara nella esperienza di questi uomini. Proprio queste capacità che vennero acquisite da questo gruppo speciale permise al gruppo stesso di affrontare alcuni dei momenti più drammatici degli scontri di Genova e senza che questi scontri degenerassero in situazioni tragiche come quella che successe nella piazza dove morì Carlo Giuliani nello scontro con i carabinieri. Naturalmente queste tecniche non volevano convincere i poliziotti a non essere violenti, scrive infatti l'autore, noi non siamo non violenti, noi siamo quello che siamo, ma appunto si insegnavano delle tecniche e si cercavano di seguire delle regole che impedissero o evitassero degli inutili eccessi come quelli che viceversa ebbero luogo poi nella scuola Diaz, dove parteciperà anche Dario, il protagonista del libro, ricevendo naturalmente una straordinaria delusione da quella incursione che avrebbe modificato proprio i punti di riferimento ai quali era stato abituato nel corso del suo addestramento. Il romanzo quindi è un libro a metà tra cronaca e dramma, con un'incursione sentimentale che si inserisce bene nel filo del romanzo, avvincente ed efficace per farci riflettere non solo su una brutta pagina della nostra storia recente, ma anche per farci entrare nei panni di chi veste una divisa ed esegue il proprio dovere, consapevole del ruolo che svolge. L'Italia contemporanea ritroviamo nel libro di Pier Sandro Pallavicini, African Inferno, è pubblicato da Feltrinelli, 334 pagine, 18 euro. L'autore è un ricercatore di chimica, ma anche narratore, che racconta qui una storia, una cronaca agrodolce di un rapporto complesso al quale ci stiamo abituando, quello tra italiani ed africani. Il protagonista è un giovane padre, Sandro, abbandonato dalla moglie, quindi alle prese col problema di poter rivedere la piccolina adorata e soprattutto di sbarcare il lunario perché la moglie era assai più ricca di lui. E proprio per questo decide Sandro di convivere con alcuni amici di colore del suo stesso livello culturale, quindi con i quali il rapporto dovrebbe essere facile. Sandro è animato dalle migliori intenzioni, si sente politically assai correct, ma ben presto si accorge che il muro dei pregiudizi è molto alto. Non soltanto ci sono i pregiudizi dei bianchi contro i negri, come lui stesso ogni tanto li chiama, ma ci sono anche quelli che vanno dalla direzione opposta, quelli degli amici di colore nei suoi confronti. Per esempio Sandro ha uno shock drammatico quando uno dei suoi conviventi lo deride ferocemente quando lui sta assistendo, impalato dall'orrore, alla testimonianza televisiva del barbaro omicidio di Fabrizio Quattrocchi e dei suoi tre colleghi a Falluia. Insomma, il libro dimostra che la correttezza politica da sola non basta, non è un libro retorico, è una cronaca romanzata, tratti ironica, sempre suggestiva, positiva sulle difficoltà quotidiane, e quindi la possiamo considerare una buona prova di vitalità della letteratura che ci fa affrontare le realtà del mondo d'oggi. Mi chiamo Benjamin Button e sono nato in circostanze singolari. Santo cielo, assomiglia tutto al mio ex marito. Mentre tutti invecchiavano, io diventavo sempre più giovane. Tu non sembri una persona anziana. Non lo sono. Queste erano alcune battute del film Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt e Kate Blanchett, appena uscito nelle sale cinematografiche. Vi segnalo in questa occasione che è uscita la trasformazione in fumetto del libro dal quale è tratto il film, che è il libro di un grande autore, Francis Scott Fitzgerald. Il libro si intitola appunto Il curioso caso di Benjamin Button, è pubblicato da Wanda, sono 128 pagine e costa 14 euro. L'adattamento è di Nunzio De Filippis e Cristina Weir con le illustrazioni di Kevin Cornell. E a questo punto... Il confettino. Oggi non vi segnalo un libro, ma la possibilità di comprare tanti libri con un buono sconto. Infatti fino al 28 febbraio prosegue un'iniziativa alla Libreria dei Ragazzi di Milano in via Tadino e alla Libreria dei Ragazzi di Torino in via Stampatori. Si intitola Rimedi letterari a metà prezzo contro la crisi, tiriamo fuori catalogo. Si tratta di un'iniziativa che avviene per il terzo anno. Si possono acquistare una serie di libri a metà prezzo, sono oltre 500 titoli per bambini e ragazzi che sono appunto di nuovo resi disponibili sugli scaffali della libreria. E con questo ringrazio Daniele Casagrande, Vittorio Mussini in redazione, Giacomo Spunta in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Do la parola a Respiro di Laura Bettini. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.